Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Cari amici radioascoltatori, bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto con il programma Fuori di Noi. E finalmente dopo qualche settimana posso dire che ai microfoni c'è Anna e Cristian. Anna, ciao, bentornata. Christian, ciao a tutti, grazie. Anna, io ho cercato di raccontare in queste settimane cosa hai fatto, cosa non hai fatto, perché non sei venuta, perché non hai partecipato a questo programma, ma adesso ovviamente a te la parola. Dove sei stata in queste settimane? Impegnata in un weekend per animatori, diciamo, di formazione nella tua parrocchia, che è quella di Spinea, e poi invece sei stata impegnata anche in un nuovo lavoro, perché stai forse appunto iniziando anche un nuovo impegno, diciamo, professionale, quindi stai facendo uno stage. Anna, ma non ti è mancato non essere qui ai microfoni di Fuori di Noi, con me soprattutto? Certamente mi è mancato tanto, infatti oggi sono proprio contenta, non mi vedi bella, certo, allegra? Ti vedo bella, solare, felice appunto di essere ai microfoni. E salutiamo anche la regia di Eddie Daici. Anche Eddie era un po' in pensiero, perché ha detto sempre solitamente solo Cristian. No, ci vuole anche Anna per Fuori di Noi, se no non sarebbe Fuori di Noi. Allora, Anna, grazie, bentornata. Hai fatto delle belle esperienze, oltre ovviamente a quelle, diciamo, che hai un po' raccontato, il weekend di formazione, lo stage e altri impegni che hai avuto. Quindi, diciamo, è un momento, diciamo, un po' vivace, un po' dove c'è un po' di fermento. Ed è un momento anche molto particolare per quanto riguarda appunto l'Azione Cattolica. Certamente. Perché siamo quasi in diretta, stiamo appunto per celebrare, stiamo in questi momenti anche celebrando un grandissimo appuntamento. Ma sai che abbiamo chiamato per farcelo raccontare, perché potevo anche farti una domanda, tu potevi tranquillamente rispondere visto che fai parte anche dell'equipe diocesana, ma noi abbiamo anche contattato uno dei responsabili appunto dell'Azione Cattolica Ragazzi, ACR Diocesi di Treviso. Vediamo se ce l'abbiamo al telefono. L'abbiamo disturbato, l'abbiamo contattato? No, lui è un ospite, diciamo, abbastanza consueto del nostro programma ed è sempre disponibile per qualche minuto appunto a concederci un po' del suo tempo e raccontarci cosa di bello succede in ACR a Treviso. Iafti, sei al telefono, sei qui con noi? Ciao Anna, ciao, tutto ciao. Bene? Tutto bene, quando ti sentiamo noi stiamo molto bene. Sì. Guarda Anna, io non ti posso descrivere il sorriso che ha fatto, ho detto finalmente c'è Iafti, così insomma sentiamo qualcuno di nuovo oltre a Cristian. Iafti, allora... è diventato una star a livello nazionale, insomma. No? Dobbiamo dire, esatto, che tra i mille impegni, lei non lo dice perché è timida e vuole, non vuole apparire, eccetera. Ma Iafti, dove è stata Anna in queste settimane, anche nelle passate settimane, dove starà? È stata anche a Roma, perché l'abbiamo mandata in centro nazionale dell'Azione Cattolica, insomma. Ah, quindi sei andata posta, praticamente nel cuore dell'Azione Cattolica nazionale. Sì, una capoccia. E quindi arriva qua senza tante cose, preamboli, eccetera, ma qui abbiamo una personalità, insomma. Certo, ti ha superato, Iafti? No, mai, quello mai. È insuperabile. Allora, Iafti, abbiamo appunto un grande appuntamento da celebrare, che stiamo celebrando. Raccontaci un po' com'è questo appuntamento, come l'avete pensato e appunto qual è l'importanza di questa giornata speciale per quanto riguarda l'Azione Cattolica di Treviso. L'occasione del convegno diocesano annuale dei ragazzi è per noi davvero importante, perché è occasione di incontro, soprattutto in quest'anno in cui i ragazzi hanno fatto un cammino di fede improntato sulla sequela del Signore, quello di ritrovarsi a fine anno in tanti, di aver fatto questo cammino con una domanda di vita davvero importante, quella di essere liberi, di scegliere, di interrogarsi se siamo liberi di seguire il Signore o se siamo, c'è altro che ci porta lontano da Lui, che ci porta a essere tentati ad allontanarci. Ecco, questo è un cammino che abbiamo fatto, un'ambientazione quella della montagna che ci ha guidato un po' anche a scalare le montagne delle nostre vite, quindi di ritrovarci ora al convegno diocesano una CR d'alta quota. Ecco, per questo il titolo CR d'alta quota del convegno è proprio ritrovarsi insieme, gustare la bellezza di ritrovarsi tutti insieme dopo aver fatto un intenso di cammino e di ritrovarsi assieme al nostro vescovo. Ecco, per noi l'importanza della celebrazione eucaristica in cui Gesù ha fatto strada con noi durante tutto l'anno, ritrovarsi a gustare la bellezza di stare con Lui. E quale bellezza da gustare più bella che quella dell'incontro nel sacramento dell'Eucaristia. Assolutamente. Quindi, sì. Questo è un convegno che, come tu ben sai Cristian, in montagna il tempo è molto variabile e quindi ritrovarsi ad alta quota, ci siamo trovati con un temporale, una già in corso, quindi abbiamo un po' modificato il programma, ma siamo pronti, insomma, quello che stiamo anche facendo in queste ore, insomma, è quello di poterci ritrovare a San Nicolò per la celebrazione eucaristica e poi spostarsi nei vicariati per continuare l'attività. Ok, Afti, ti chiedo l'ultima cosa, perché appunto state già lavorate appunto perché questa, diciamo, festa, occasione di festa sia grandiosa, sì, sia anche, diciamo, occasione di riflessione e anche di bilancio. Allora, io so che appunto il nuovo consiglio direttivo eletto qualche tempo fa sta lavorando molto sul territorio, cioè io ho contato, avevamo anche l'Elisabetta Scrocoro, che è anche vicepresidente un po' dell'Azione Cattolica, sì, e mi dice sempre ogni settimana ho tanti appuntamenti, ma ce li ha anche Afti, ho visto Anna impegnata anche in trasmissioni televisive di Telechiara, insomma, qual è la percezione, diciamo, se è un piccolo, diciamo, occasione appunto anche di fine anno, voi siete, avete investito molto tempo, il nuovo direttivo dell'Azione Cattolica, nel territorio, cioè visitando concretamente i vicariati, le parrocchie, per vedere, per sentire il polso di questa associazione nelle comunità dove viene, diciamo, dove è insediata, dove viene a trovarsi, eccetera. Qual è il polso della situazione? Cioè è un respiro, è un bilancio positivo, è una continua scoperta anche di nuove realtà, di nuove persone che si dedicano, diciamo, alla formazione e all'educazione secondo i principi del Vangelo. Qual è la tua sensazione, Afti, dopo questo periodo? Christian, è quella di una ricchezza che abbiamo scoperto in queste settimane, su un territorio di dove c'è tanti giovani e adulti appassionati nell'accompagnare le nuove generazioni a Gesù, a Cristo, al suo Vangelo come orizzonte e come modello di vita. E certo, con tante fatiche, con tanti magari limiti, ecco, questo è l'importante, che però di metterli in mano al Signore, di mettere in mano a Lui le nostre fragilità e di riconoscere dove possiamo arrivare e poi veramente affidarci e credere che l'azione dello Spirito può davvero, davvero soffiare, accompagnare questi giovani, questi ragazzi a un cammino di santità. Questo è un po' quello che l'Azione Cattolica ci insegna. Abbiamo da poche settimane celebrato la beatificazione di Giuseppe Tognolo, un laico delle nostre terre, un padre di famiglia, insomma, una persona che oltre per l'economia ha dato anche un'impronta di vita cristiana davvero, davvero seria, ma anche davvero profonda, radicata, che poi si è vista nei figli, insomma. Crediamo fortemente che l'Azione Cattolica può essere un cammino di santità per tante, tante, tante persone, giovani, adulti e anche ragazzi, perché anche loro, a loro misura, possono avere un cammino di fede profondo, radicato, serio. Certo, Afti, allora ti ringraziamo tanto, auguriamo ogni bene all'Azione Cattolica e ci auguriamo di rinsaldare ancora di più il legame tra Associazione Noi, quindi oratori, e Azione Cattolica per il bene comune, questo spirito appunto che entra, diciamo, nei cuori di questi ragazzi, di queste famiglie, frutto anche della forza, dell'unione, della collaborazione tra queste due grandissime realtà presenti in tutte le diocesi appunto del nord d'Italia, ma anche a livello nazionale. Grazie ancora, Afti, e buon lavoro. Ciao Afti. E dedichiamo allora a tutti i nostri amici dell'Azione Cattolica e anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando la prima canzone scelta appositamente da Anna. Qual è? Luce di Elisa. Parlami come il vento fra gli alberi. Parlami come il cielo con la sua terra. Ma ho scelto di essere Tramonti a Nord-Est di Elisa, appunto dedicata a tutti i nostri amici dell'Azione Cattolica e del Noi Associazione, e dedicata appunto dalla nostra Anna Zampieri, che ha scelto questo primo brano musicale. Anna, ti ricorda qualcosa questa canzone? Perché proprio l'hai scelta? Ti piaceva? Sì, mi piaceva, e poi anche soprattutto visto che abbiamo appena avuto come ospite, ecco, Yafti, voglio ricordare che Elisa è proprio la cantante preferita sia di Yafti che di Don Andrea, quindi la dedico in modo particolare a loro. Oh, molto bene, questo non lo sapevamo, una chicca che ci hai dato, una piccolo scoop. Bene, ma noi continuiamo la nostra trasmissione perché abbiamo un altro ospite sempre maschile che ci parla però da una diocesi molto lontana. Non siamo più a Treviso, non siamo a Padova, non siamo a Venezia, non siamo a Trieste, non siamo a Vittorio Veneto. Tutti i comitati territoriali che noi abbiamo intervistato, anche la zona di Verona, anche Trento, ma andiamo a Ferrara. Perché a Ferrara? Vediamo se riusciamo a farcelo spiegare dall'ospite che abbiamo in linea. Don Enrico, ci sei? Ci sono. Eccolo qui, dalla diocesi di Ferrara Comacchio, Don Enrico. Allora, Don Enrico, presentati un attimino, chi sei? Ho 32 anni, sono un sacerdote diocesano e da 4 anni sono prete. Attualmente sono inviato come vicario parrocchiale in una parrocchia, la Sacra Famiglia, una realtà piuttosto vivace di 18.000 abitanti, mantenendo comunque l'incarico di assistente diocesano dell'ACR e insegno religione presso il liceo scientifico della città. Quindi allora, insegni religione, sei responsabile della CR e noi ti abbiamo chiamato, Anna lo chiamiamo anche perché è stato già ospite, diciamo, nel passato di una puntata di Fuori di Noi. Don Enrico appunto cercava appunto di fondare un oratorio appunto affiliato a noi associazione nella diocesi di Ferrara. Non ce ne sono all'interno di questa diocesi e penso e so appunto che ci sei riuscito. Quindi Anna, fai tu la prima domanda. Sì, allora io vorrei sapere quali sono state appunto le tappe che hanno segnato la fondazione di questa realtà oratoriale affiliata al Noi Associazione. Certo, direi che tutto è partito da una consapevolezza che a livello parrocchiale avevamo raggiunto, no? Che abbiamo capito che gli spazi in cui i ragazzi, i giovani decidono la loro vita oggi non sono più quelli tanto istituzionali come la famiglia, la chiesa o la società, la scuola, ma piuttosto dagli intrecci della vita quotidiana in cui i giovani, i ragazzi sono soggetti. Sono spazi che si ritagliano un po' contro tutto e contro tutti, no? Penso allo spazio della notte, lo spazio del tempo libero, dello stare insieme, delle amicizie, della solitudine, dell'attesa. E questo spazio per noi era l'oratorio. Quindi ci siamo messi insieme un gruppo di persone, giovani e meno giovani, con questa finalità educativa, dare ampio spazio a questo luogo di relazioni. Allora, Don Enrico, come hai trovato, diciamo, nella creazione appunto e quindi anche nella formalità, nel formare appunto, nel creare un circolo Noi, il sostegno da parte dell'Associazione Nazionale? Sei andato a Verona, hai incontrato i responsabili? Come si fa a creare un oratorio Noi in una diocesi dove non c'è un comitato territoriale come per esempio a Treviso, Venezia, Padova? Certo, noi ci siamo rivolti telefonicamente presso il Noi di Verona, il quale ci ha seguito in un modo veramente fantastico. Nel senso, ci hanno seguito passo dopo passo tutte quelle parti burocratiche e giuridiche della Costituzione, a partire dalla stesura dell'atto costitutivo, alla scelta del consiglio direttivo, al regolamento interno dell'istituto, alle varie cariche associative. Passo dopo passo ci hanno accompagnato sia venendo presso il nostro oratorio, così ci siamo conosciuti, incontrati, sia poi siamo andati noi lì e ci hanno fatto anche un piccolo corso sulle parti più gestionali. Molto bene. E quali sono le principali attività del vostro oratorio Noi? Ecco, noi innanzitutto abbiamo tentato così un primo progetto che noi studiamo. E questo progetto fa sì che praticamente ci prendiamo a cuore la situazione della scuola. Da noi la scuola è molto in crisi, non riesce a garantire comunque dei corsi pomeridiani per i ragazzi, soprattutto nel sostegno per coloro che hanno maggiori difficoltà o comunque provenienti da altri paesi, quindi con difficoltà linguistiche. Pertanto abbiamo, noi ha pensato di proporre così un dopo scuola per ragazzi, in modo particolare per le fasce dell'età delle elementari e delle medie, con del personale qualificato, con degli insegnanti e anche dei volontari. Ho capito, quindi... Questo è il primo che abbiamo così, poi altri che abbiamo... stiamo attuando, abbiamo così iniziato. Questo era proprio per creare un ponte, certo, tra la scuola, magari utilizzando anche un po' le mie competenze, il territorio, il quartiere. Poi abbiamo pensato a un altro progetto più sul tempo libero per coinvolgere magari i più anziani, quindi con il gioco di carte, il burracco, la tombola, e ritrovarsi insieme per la visione di qualche film, con la discussione successiva. E per i più giovani invece dei progetti più a livello sportivo, quindi tornei di beach volley, tornei di calcio a 5. E adesso ci stiamo comunque preparando tutte le attività estive che quest'anno il Noi Oratorio della Sacra Famiglia vuole proporre. In modo particolare alcuni due progetti, i GREST, certo, anche noi utilizzeremo il sussidio del Noi Oratorio del Triveneto, e allo stesso tempo anche i campi scuola in collaborazione con l'Azione Cattolica diocesana. Ma Don Enrico, allora è inutile che ti faccia la domanda: che rapporto c'è tra oratorio ed educazione? Perché ce l'hai già spiegato, voi l'avete concretizzato con un'attività che è il dopo scuola, diciamo, un'attività di sostegno che forse non ha, anzi senza forse, non ha il compito solo di ripassare delle materie, ma anche accompagnare nella formazione, anche nel sostegno un ragazzo appunto che si trova magari un po' in difficoltà a livello scolastico, ma forse ha anche altre cose da condividere, diciamo, ecco, quindi questo è molto importante. Ti chiedo invece un'altra cosa: la risposta com'è stata? Cioè voi avete già preparato un programma anche per l'estate, ce lo stavi dicendo prima, la risposta all'apertura di un oratorio, mi pare si chiami Oratorio Sacra Famiglia, no? Così l'avete chiamato come la vostra parrocchia ferrarese. Qual è stata la prima risposta? Entusiasmo da parte dei ragazzi, da parte delle famiglie? Tu cosa hai sentito? C'era bisogno di questo oratorio? Adesso sta funzionando? C'è curiosità intorno a questo ambiente? Certo, la diocesi di Ferrara Comacchio non presenta in realtà a livello del nostro territorio, a parte quella degli salesiani, a livello di oratori, quindi è stata un po' una novità. Novità soprattutto per la città di Ferrara, in quanto la nostra parrocchia è situata a un paio di chilometri proprio dal centro della cattedrale, e questo ha successo un grande entusiasmo soprattutto nei confronti dei parrocchiani, non solo, anche abbiamo visto arrivare moltissimi ragazzi soprattutto nel fine settimana e sabato alla domenica, perché durante il pomeriggio è aperto dalle 4 alle 7 tutti i giorni, dal lunedì alla domenica compresa, più il sabato sera. E anche il sabato sera abbiamo visto che comunque molti ragazzi, magari anche quelli che non frequentano comunque dei percorsi formativi in parrocchiali, hanno iniziato ad entrare per le porte dell'oratorio, e si inizia comunque un dialogo, e questo crea dei contatti umani, secondo me molto molto belli, molto importanti. Certo. E se dovessi descrivere l'oratorio con un oggetto, quale sceglieresti e perché? Ma credo che non è così facile definirlo con un oggetto, l'oratorio, perché è qualcosa di molto prezioso. Io lo definirei come un profumo. Provo un po' a spiegarlo. Certo. Nel senso che il compito che io cerco di attuare è quello di vivere da prete e entrare nell'oratorio per stabilire dei contatti umani e personali con ciascun ragazzo, ciascun adulto lì presente, con la loro storia. E quindi per me l'oratorio è il segno delle tante essenze profumate, no? Il saper attraverso questi contatti respirare il profumo dell'altro, quindi le sue caratteristiche, la sua storia, le sue qualità, ecco. E naturalmente infondere quel profumo di cui noi ci alimentiamo, che è il profumo di Cristo. Beh, allora io credo che fino ad oggi nessuno abbia risposto a questa domanda con questo, diciamo, oggetto, con appunto dicendo il profumo. Metteremo anche questo, Don Enrico, in lista con tutti gli altri personaggi a cui abbiamo chiesto appunto di descrivere l'oratorio con un oggetto, e sono arrivate tante risposte affascinanti. Chissà mai appunto che non riusciamo a raccogliere tutte, a fare un piccolo libretto e a dare a ciascuno appunto il giusto valore. Don Enrico, vorremmo chiederti solo una cosa, hai 30 secondi per rispondere, ma per tutte queste aperture, tutte queste ore aperte per quanto riguarda l'oratorio Sacra Famiglia di Ferrara, servono tanti volontari? Come sei riuscito a coinvolgere le persone persone nel darti una mano concretamente? Perché immagino che tu non sia sempre lì. No, è difficile, cioè la presenza non riesco a garantirla tutti i pomeriggi, cerco di garantirla soprattutto il sabato sera nel weekend con i ragazzi. E la cosa molto bella è che proprio da questa consapevolezza del bisogno di costruire insieme un ruolo, un luogo di relazioni, una piazza di incontri, un luogo di apertura, no? Quest'anno per noi è anche l'anno del 60° della costruzione della parrocchia, è stata una cosa molto bella perché è stato un simbolo, no? Di accoglienza, un segno forte, di apertura verso il territorio, verso il quartiere. Quindi moltissime persone, soprattutto di persone impensionate, si sono subito rese disponibili proprio a collaborare, quindi un gruppo di persone piuttosto anziane, comunque così in pensione, hanno la disponibilità soprattutto per la gestione così del bar, mentre alcuni giovani seguono la parte più rivolta ai bambini e ai ragazzi, e un gruppo di genitori invece dei bambini del catechismo ci stanno aiutando su alcuni progetti nei confronti della famiglia. Quindi il compleanno, diciamo, della parrocchia è stato festeggiato con un grande regalo, un oratorio aperto e accogliente verso tutti. Don Enrico, ci risentiremo più avanti per sapere appunto come va l'oratorio Sacra Famiglia di Ferrara. A te auguriamo ovviamente buon lavoro sia per quanto riguarda l'oratorio che per quanto riguarda il tuo impegno nella CR diocesana della diocesi appunto di Ferrara Comacchio. Ciao ancora e tante grazie. Ciao Cristian. Ciao Don Enrico. Ciao. E ovviamente dedichiamo a tutti gli amici di Ferrara Comacchio la prossima canzone, sempre scelta dalla nostra Anna, Jovanotti con Tutto l'amore che ho. Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro al caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto. Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Un prigioniero dentro al carcere infinito, mi sentirei se tu non fossi nel mio cuore. Starei nascosto come molti dietro a un dito, a dar la vinta ai venditori di dolore. E ho visto cose riservate ai sognatori, ed ho bevuto il succo amaro del disprezzo, ed ho commesso tutti gli atti miei più impuri. Considerando che l'amore non ha prezzo, considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. E tutto l'amore che ho era il brano appunto di conclusione che conclude anche questa ennesima puntata di Fuori di Noi. Bellissima canzone, vero Anna? Sì, bello. Perché nella vita ci vuole veramente tanto amore, sì. E l'amore non ha prezzo. Esatto. Ma cosa ricordiamo allora? Innanzitutto che ci risentiremo sempre su queste frequenze. Sì, allora il sabato alle 14 e la domenica alle 12:30 ovviamente su Blu Radio Veneto. Se vogliono mandarci un'email. Sì, possono scrivere a fuoridinoi@libero.it. SMS. Oppure si può appunto inviare un SMS al 320-6146-964. Ma la settimana prossima, ultima notizia, ultima news, siamo tutti invitati alla festa di Vita del Popolo, perché appunto festeggia 120 anni. Cooperazione Vita è il titolo, lo slogan che accompagna la festa di domenica 20 maggio dalle ore 9 alle 19, dove in Piazza dei Signori e in tanti altri luoghi del centro di Treviso ci saranno giochi giochi, occasioni di incontro, festa insieme tutta la giornata dalle 9 alle 19 e anche la diretta, cioè la festa verrà seguita in diretta attraverso l'emittente Blu Radio Veneto. Quindi andate sul sito di www.bluradioveneto.it perché ci sarà appunto la festa in diretta video, non soltanto via radio. Ricordo, domenica 20 maggio, grande festa per Vita del Popolo e noi facciamo già tanti auguri di buon compleanno. Ci salutiamo, ringraziamo la regia di Edidai, ci risentiamo la prossima settimana con Fuori di Noi da Christian ed Anna. Ciao a tutti! Ciao ciao! Fuori di Noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.